ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuto al nostro primo ospite della giornata, il dottor Dario Manfellotto, che è presidente della Federazione Medici Internisti Ospedalieri e direttore del Dipartimento di Medicina Interna al Fate Bene Fratelli di Roma. Dottor Manfellotto, buongiorno. Piacere mio, buongiorno. Dottore, io l'ho invitata perché si è proprio concluso ieri il vostro convegno, il convegno della vostra società scientifica, che ha avuto grandissimo successo. Gli internisti, sappiamo, anche durante questa pandemia hanno svolto un ruolo centrale, si sono occupati dei pazienti più fragili e al tempo stesso mi piacerebbe che lei ci raccontasse un po' la vostra posizione e anche come vi state organizzando per affrontare questo autunno che sarà per molti di noi una nuova sfida. Dottor Manfellotto, intanto, quali sono i temi che, su cui avete lavorato durante il congresso? E ne approfitto anche per chiederle di raccontarci qual è il profilo del medico internista. Allora, intanto il congresso, come lei mi chiede, si è appena concluso il 25esimo congresso della nostra federazione, che riunisce 3.000 internisti ospedalieri presenti in tutti gli ospedali italiani. È il primo congresso grande congresso in Italia che viene svolto con queste caratteristiche cosiddette smart virtual, cioè una piccola presenza in sala con massimo 30 persone per essere distanziati e attenerci alle norme previste, e poi tutti gli altri sono collegati. I temi che abbiamo affrontato sono quelli della complessità della medicina interna e quindi dell'aggiornamento in tutti i temi della medicina interna, riletti e rivisti anche alla luce della vicenda Covid dei mesi scorsi e di quello che vediamo cosa sta succedendo in questi giorni. Chi è l'internista? Lei in qualche modo chiedeva. L'internista è il medico prevalentemente ospedaliero, il medico che affronta nei reparti di medicina interna i pazienti più complessi, quelli che sono complessi non solo perché sono difficili da comprendere, ma anche difficili da trattare perché hanno insieme varie condizioni di malattia, lo scompenso cardiaco, il diabete, l'insufficienza respiratoria, l'ipertensione, il danno renale, eccetera, eccetera. E noi dobbiamo avere la capacità di affrontare tutte queste malattie nello stesso momento, cercando di controllare e riportare il paziente all'equilibrio. Che cosa è successo nel corso dell'emergenza Covid e come ci siamo attrezzati? Avendo fatto una stima del lavoro che c'è stato in questi mesi, i pazienti malati di Covid che sono stati ricoverati in ospedale per il 70% sono stati ricoverati e seguiti dagli internisti nei reparti di medicina interna, rivisitati e modificati per affrontare l'emergenza anche dell'infezione, del possibile contagio. Questo è un lavoro che poi al congresso hanno riconosciuto e apprezzato il ministro Speranza, il vice ministro Sileri, tutti gli altri intervenuti, Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi vi siete occupati, insomma, importante, dottor Manfellotto, delle persone più fragili, quelle più a rischio. E poi lei ha detto la parola giusta, fragili. Noi è un termine che utilizziamo abitualmente per definire il malato complesso che ha condizioni di fragilità anche personale, psicologica, sociale anche. Sono pazienti difficili da assistere, che hanno problemi assistenziali in famiglia, nella loro vita quotidiana. Sono veramente fragili come dei bicchieri di cristallo e noi dobbiamo affrontarli con grande attenzione. Sono questi che hanno pagato il maggior tributo in termini di malattia e purtroppo di morte nel corso dell'infezione da Covid. E quindi sono questi i pazienti che voi seguite anche fuori dall'ospedale, anche dopo il Covid, per aiutarli a ritrovare una nuova quotidianità. Dottor Manfellotto, i malati cronici hanno timore di ritornare in ospedale per sottoporsi a dei controlli? Anche questo è un tema che voi avete affrontato. E le chiedo un aiuto per mandare un messaggio alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, perché la prevenzione non deve fermarsi, così i controlli e così l'aderenza alla terapia. Sì, infatti, noi adesso stiamo affrontando due piani paralleli di cura che sono e di assistenza. Uno è quello dei malati acuti nuovi che arrivano, con qualunque tipo di malattia, con qualunque tipo di patologia, sempre acuta, perché sono sempre malati cronici che si riacutizzano e che vengono nei nostri ospedali, nei nostri reparti. E poi anche il controllo dei pazienti che si sono ammalati durante il Covid, che sono guariti, e dobbiamo verificare che la malattia non abbia lasciato delle sequele stabili. E quindi sono dei programmi che stiamo approntando e portando, abbiamo già iniziato, cominciato in tutta Italia, con le diverse realtà regionali, proprio per poter affrontare quello che è successo dopo il Covid, quindi funzione respiratoria residua, funzione cardiaca residua, rischio cardiovascolare, danno renale, eccetera, eccetera, eccetera. Un aspetto importante che lei evidenziava è quello della paura di molti malati, soprattutto i cronici, di venire in ospedale. Allora, noi stiamo approntando percorsi differenziati, cioè abbiamo approntato già, non è che stiamo facendo dei percorsi differenziati molto accorti. I malati vengono studiati all'inizio del ricovero con i tamponi molecolari rapidi per verificare se sono infetti. Questo viene ripetuto anche durante il ricovero e alla dimissione prima di andare a casa. Per cui questi malati sono molto controllati e si cerca di ridurre al massimo il rischio del contagio. Ed è noto, perché è uscito 3 giorni fa sulla rivista dei medici americani JAMA, che se le misure di protezione all'interno dell'ospedale sono realizzate con grande accortezza, come tutti noi stiamo cercando di fare, il rischio di contagio, cioè di infezione in ospedale da Covid, è praticamente assente. Quindi i malati che entrano possono essere tranquilli che noi stiamo veramente facendo tutto e i risultati in termini di prevenzione sono assolutamente importanti. Ma dottor Manfellotto, con i nuovi contagi potrebbero sommarsi ai nuovi casi di influenza. Questa è un po' la preoccupazione di tutti noi, non solo naturalmente dei medici. Questo è un altro aspetto importante. Noi stiamo veramente facendo tutte valutazioni in corso d'opera, no? Come si dice, così come abbiamo affrontato una malattia sconosciuta, adesso stiamo verificando che cosa può succedere nei prossimi mesi con l'epidemia da influenza tradizionale, diciamo. Perché è chiaro che al primo starnuto, al primo colpo di tosse, si pensa immediatamente al Covid, mentre invece ci si può ammalare di influenza tradizionale, di raffreddore, quindi non c'è soltanto il Covid. Allora la vaccinazione che tutti quanti raccomandano e raccomandiamo, quella vaccinazione anti-influenzale e la vaccinazione antipneumococcica, sono assolutamente indispensabili, soprattutto nelle persone più anziane, diciamo al di sopra dei 65 anni, anagraficamente sono anziani, ma ovviamente non sono vecchi, però ecco, diciamo anagraficamente questa è la soglia al di sopra della quale la vaccinazione va fatta, perché tra l'altro non soltanto aiuta nella prevenzione dell'influenza tradizionale della polmonite da pneumococco, ma si è visto anche che con dei meccanismi indiretti attiva una sorta di difesa nei confronti dell'infezione da Covid. Quindi è un aspetto importante sul quale bisogna sempre raccomandare e stimolare alla vaccinazione attiva da parte di tutti i pazienti. Dottor Manfellotto, ogni esperienza insegna. Che cosa ci ha insegnato? Che cosa avete imparato anche come medici dal Covid? Abbiamo imparato intanto che questa malattia, che sembrava all'inizio per molti era sembrata una banale influenza, era una malattia molto importante, un'infezione molto grave che può decorrere in modo leggero, ma che può veramente portare a condizioni che poi medicalmente non si riescono più a controllare. Ma anche abbiamo imparato a trattare le condizioni cliniche con un insieme di farmaci che riescono a rallentare o a bloccare la progressione della malattia e evitare che si arrivi in terapia intensiva, dove purtroppo la mortalità è elevatissima. L'obiettivo è fermare la malattia durante la fase iniziale ed evitare la progressione, quindi di qui antibiotici, antivirali, cortisoni, eparina, ecco, tutto questo abbiamo imparato a dosarlo e a mescolarlo con un cocktail corretto nelle dosi giuste nel modo migliore. Poi un'altra cosa che abbiamo imparato è quella degli ospedali, cioè gli ospedali devono mantenere una caratteristica che unisce il massimo delle tecnologie con una struttura modulare che si modifica in corso d'opera. È un po' sanatorio, come i vecchi sanatori, dove si mettono insieme tutti i malati con la stessa infezione. E chiudo con quello che noi sosteniamo sempre, che come messaggio è passato anche nelle istituzioni: non ha senso avere una logica di divisione fra specialisti, fra reparti, cioè dire servono più reparti pneumologici, reparti di terapia intensiva, reparti di malattie infettive. È l'area medica, diciamo noi, in senso integrato, che deve accogliere i pazienti e qui mettere insieme le competenze a seconda della necessità. Dottor Manfellotto, grazie per essere stato con noi. Le auguro grazie una buonissima giornata e speriamo di sentirci presto. Avanti tutta. Grazie. Dottoressa Carbone, buon lavoro. Buon lavoro a lei. Arrivederla. Noi ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per un nuovo incontro con le nostre video interviste. Buona giornata da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.